direi tutto a regolare, 8 e 5 minuti di questo mercoledì magico e letterario di Radio Città Fujiko al Breakfast Club, già in studio, anzi con un leggero anticipo, Silvia e Stefano che saluto. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti, a te. Buongiorno anche a Stefano, che sarà il notaio per i quiz che porteremo all'attenzione di voi ascoltatrici e ascoltatori. Sono ben contento, non tanto per lo svolgimento della diretta, anche se è importante, ma con i cambiamenti al secondo giorno di Bologna a 30 km orari, qualche notizia sul traffico la possiamo dare, Silvia? Ma cioè non abbiamo trovato un traffico strepitoso, devo dire la verità. È andata peggio altre volte. Sì, siamo partiti prima, un pochino prima di casa, 5 minuti prima, perché diciamo, ma sai, con i 30 all'ora non è detto che non troviamo problemi. No, invece siamo andati bene. Certo, sono ben contento. Certo, via Zanardi era vuota. Stefano continuava a dire: qui si potrebbe fare di più, si potrebbero fare 50. Stefano addirittura, che uno che guida con le mie stesse modalità, cioè una prudenza veramente dominante. Però sai, non c'era un'anima venendo verso via Zanardi, non verso il centro. Ho capito. A quel punto ti veniva quasi spontaneo dire: ma perché dobbiamo andare così piano? Quindi anche dal punto di vista letterario possiamo partire senza limiti in questo caso. Nella nostra playlist, che è anche musicale, ha portato una produzione in vinile. È di Stefano o tua? No, i vinili sono tutti di Stefano, quasi rigorosamente tutti di diciamo Stefano. I vinili sono in cantina. Sono in casa. Okay, no, stavo per riprenderlo se fossero in cantina, perché sai, l'umidità non è molto. I vinili di jazz sono tutti di Stefano. Ok. Salutiamo e ringraziamo Libreria Ubic di Via Ernerio 27 in collaborazione con il Voltiamo Pagina, rubrica letteraria dei 103.1, e abbiamo anche la co-conduzione comunicazione e la possibilità di arricchire le vostre biblioteche, quindi ribadisco il 333-180-9494. Allora Silvia, vedo una copertina molto molto bella intanto. Sì, è una copertina molto molto affascinante, direi, per un libro che a me è piaciuto, devo dire. Non bisogna vergognarsi quando si leggono libri. È un libro che mi hanno prestato. Sarò più in difficoltà io. È un libro che mi hanno prestato, che non ero convinta, perché sai che io ho sempre un minimo di snobistico così. Filtro, sì, verso gli autori e soprattutto le autrici italiane. Per cui l'ho letto con i piedi di piombo, diciamo, e invece mi sono divertita. È un libro che posso consigliare, diciamo. Si tratta di Irina Nikolaevna o l'arte del romanzo di Paola Capriolo, edito da Bompiani. È un romanzo di quelli che creano un'atmosfera, diciamo, come, no? Vecchia Romagna. Come Vecchia Romagna. Io che sono amante di Vecchia Romagna o di Stravecchio. Sì, infatti siamo nel vecchio, perché anzi, se vuoi anche nello Stravecchio, perché è tutto ambientato negli ultimi decenni del secolo XIX. Dell'Ottocento. Immaginavo dalla protagonista nel titolo. E veramente l'autrice è stata bravissima a ricreare l'atmosfera di quel periodo, per cui quando tu lo leggi, sarà anche perché è scritto tutto al presente, ti senti come se fossi lì e come se vivessi, è tutto ambientato a Sanremo, nella Sanremo fra gli anni 70-80 dell'Ottocento e il Novecento. Ed è la storia di questa Irina Nikolaevna, che sarebbe la dama di compagnia di una signora inglese, Lady Brown, la quale, moglie di un ricco possidente che purtroppo è defunto, ha scelto di passare la sua vedovanza a Sanremo. E qui bisogna dire che negli anni, nella seconda metà dell'Ottocento, a Sanremo era la meta preferita da tutti i ricchi ricconi. È da Grand Tour Sanremo. I nobili di tutte le casate europee che volevano trascorrere l'inverno soprattutto in un clima mite. Quindi era rinomata come una, quasi come, non ci sono terme, ma quasi come una stazione termale, come un posto comunque in cui si andava per migliorare la propria salute. Chi aveva dei problemi, per esempio respiratori, quando non di tisi, il posto giusto era Sanremo. Si dice nell'immediato per svernare. Ecco. Per svernare, sì, però qui proprio c'è tutta c'è qualcosa di più. Una categoria di persone che vanno anche per curarsi. E tra questi, per esempio, c'è il futuro imperatore d'Austria, cioè Federico, che poi va a Sanremo, che è già molto malato, e torna in Austria per essere eletto, ma rimane in carica pochi mesi perché poi muore. Non ce la fa. Non ce la fa. Va bene. E quindi questo è il tipo di personaggi che si trovano nella Sanremo che conta. E questa signora vedova cerca appunto una dama di compagnia e viene affascinata da una ragazza che ha un 25-26 anni, quindi non è giovanissima, chiamata che si presenta come Irina Nikolaevna. La lady le chiede: va bene, ma non hai un cognome? Perché Nikolaevna è il patronimico. È il patronimico, sì. E lei dice: no, non voglio dirlo. Non voglio dirlo, non me lo chieda, perché dietro la mia storia c'è. Insomma, lascia capire di essere probabilmente la figlia illegittima di qualche grosso personaggio della corte zarista, e non vuole appunto creare uno scandalo attorno alla propria persona. Questa Irina diventerà poco alla volta il fulcro di tutta la storia, più che altro per il mistero che la circonda, perché fin dall'inizio la signora Lady Brown non è sicura che Irina stia dicendo la verità, però una persona talmente affascinante, ha un modo di fare così, così unico, diciamo, lei capisce subito che è la persona giusta che si può mettere accanto, con la quale può parlare, con la quale può avere uno scambio, non dico alla pari ma quasi, che si può addirittura portare dietro anche ai balli, alle feste. E quindi, insomma, la assume, anche se non avrebbe le referenze giuste per fare questo lavoro. Dopodiché noi assistiamo appunto a 3 decenni circa nella vita di queste due donne che si trovano in una bellissima villa a Sanremo, sul mare, e accanto a loro hanno per vicini dei personaggi di grandissima importanza, dei ricchi imprenditori, ricchissimi anzi, oppure a un certo punto appunto arriva anche questo pretendente al trono austriaco con la moglie e le due o tre figlie, non mi ricordo più quante sono. E più avanti, dopo la morte dell'imperatore, la villa che lui aveva affittato, questa bellissima villa, verrà addirittura affittata da Alfred Nobel, che arriva accompagnato, cioè, dal carico di diffidenza che suscita l'invenzione, certo, che ha appena fatto. E quindi noi vedremo poco alla volta che è proprio a Sanremo, dove muore tra l'altro, che gli viene l'idea di fare qualche cosa, in qualche modo per discolparsi di questa invenzione nefasta. Sì. Ecco, e quello che è interessante è che tutti questi personaggi non tengono in grande conto Lady Brown, perché Lady Brown tutto sommato è una signora alto borghese britannica, una parvenue, se vogliamo, che è lì rispetto alla media, rispetto alla nobili, media, sì, futuri troni, infatti, e ricchissimissimi imprenditori, ma poi poco alla volta la accolgono nei loro circoli esclusivi in virtù della sua dama di compagnia, perché abbiamo detto sospette origini importanti. Sì. Cioè, lei le spaccia queste origini importanti, le spaccia. Poi non sappiamo se ci sono dei momenti nel romanzo in cui lascia intuire che forse, insomma, potrebbe anche venire da tutt'altro ambiente, da tutt'altra casata, cioè casina più che casata. però questo non preclude il fatto che questa donna riesca a farsi amica, per esempio, la moglie del più ricco imprenditore della zona, che è ricchissima, questa signora ricchissima, che guardava dall'alto in basso Lady Brown e quasi non la salutava, fa amicizia invece con la sua domestica, con la sua dama di compagnia. Più tardi, nel corso di queste lunghe passeggiate che la dama di compagnia fa nei prati, nei parchi intorno alle loro ville, riuscirà persino a diventare amica proprio di Alfred Nobel, il quale era famoso nel circondario per essere un orso, per non parlare con nessuno, un po' triste dal fatto che non uscire mai di casa. E la nostra Irina deve andare a un certo punto a prendere i gatti della sua padrona che sono scappati nel parco di Nobel, ma non solo sono scappati nel parco, ma sono entrati in casa. C'è stato un esproprio proletario di gatto comunista. E quindi scoprirà che questi gatto comunisti sono diventati, vanno tutti i giorni in casa di Nobel. E sono diventati amici, cioè lui se li è quasi adottati. Dal quasi adottare i gatti al quasi adottare la dama di compagnia è tutt'uno. Ho capito che già c'è un intreccio che porta in questo romanzo un'attenzione particolare. Le due figure femminili. Intanto è arrivato un messaggio di Sergio che ti leggerò a breve. Queste due figure femminili, che rapporti hanno tra di loro? Distesissimi. Lady Brown a un certo punto tratta Irina come se fosse sua figlia, è qualcosa di più di una dama di compagnia. E anche quando ci sono delle situazioni in cui lei si rende conto che Irina non è quella che forse non è quella che dice di essere, però non riesce a essere sospettosa, ritrosa, soprattutto non gliene parla perché capisce che Irina si chiude a riccio quando si tratta delle sue origini. E lei non preferisce, ha talmente tanta paura che questa donna la abbandoni, che preferisce tenersela così com'è. C'è tutta una situazione, non vorrei raccontare troppo. Poi pensa comunque che lei è l'anello di congiunzione tra aspetto, permettimi, mediocre di presenza tra Reali e Ricconi, e lei diventa l'anello di congiunzione perché sembra quasi più atta lei. È attraverso di lei che Lady Brown riesce a entrare nella casa di questa ricchissima signora che la sdegnava, questa signora. E poi è attraverso di lei che impara tutto su Nobel, questo essere misterioso nella cui casa nessuno era riuscito a entrare. È con lei che va a vedere l'arrivo dei reali alla stazione, perché una grossa parte, cioè, del libro ovviamente è occupata dalla descrizione del periodo di come si viveva in quel periodo tra la ricca borghesia, ricchissima borghesia e anche l'aristocrazia. Quindi c'è tutto un, per esempio, il fascino per i treni. È vero. Tutti queste persone arrivano col treno. Il treno è il simbolo del potere. È come arrivare col jet privato adesso, più o meno. Sì, per cui c'è un dialogo tra Lady Brown e Irina, dove Lady Brown dice: no, verrà a stare vicino a noi questo personaggio, è un essere infido, ha inventato un'arma di distruzione letale tremenda. Non può venire niente di buono da quello che ha inventato questo personaggio. Irina gli dice: ma come? Ma questo si può usare anche a scopi di progresso, perché con la dinamite possiamo far saltare dei ponti e costruire le ferrovie. Le gallerie, è vero, comunque non ha detto una baggianata, ecco. Poi l'uomo sappiamo bene come trasforma rapidamente, ne abbiamo la prova. Quindi c'è anche questo racconto del progresso che incalza e di cui in questo momento la ferrovia è il simbolo. Sì, allora intanto Sergio scrive: ma perché la prof guarda con sospetto i nuovi narratori e le nuove narratrici italiane? Ambasciatore non porta pena. No, ha ragione, una mia colpa, dillo come vuoi. Ognuno ha le sue perversioni. È un nostro difetto. Anche tu poi è un nostro difetto, infatti ho usato come aggettivo possessivo. Potrei anche dire che ne ho letti alcuni che non mi sono piaciuti e non soprattutto femminili, autrici femminili, anche perché sono per questioni, penso, di genere, sono forse più esigente nei confronti delle donne che non degli uomini. Più severa. Più severa. E sì, non... ma è una, ha ragione Sergio, è una mia, certo, una mia pecca. Mi unisco a te come perché pecca, come poi neo. C'è anche questo discorso che, avendo dovuto occuparmi per questioni professionali principalmente di anglosassoni e leggendo quasi soltanto autori stranieri, mi è rimasto poco tempo per leggere, certo, gli italiani, per approfondire magari questo aspetto. Facciamo uno stacco musicale prima del quiz. Certo, innanzitutto, certo, è un vinile di cui magari daremo dopo l'ascolto anche qualche notizia di approfondimento. Vi ricordo che il 333-180-9494 è a vostra disposizione. Scrive anche Luigi. Buongiorno Luigi, a tra poco. La mia caratteristica legata all'invidia è sempre un'invidia positiva, però tutti siamo invidiosi, l'importante è esserlo in maniera positiva, poi magari vi spiegherò. Intanto ringrazio Luigi, ma mi pare che la Capriolo, la protagonista del primo libro presentato da Silvia, non sia una nuova autrice. Infatti non lo è. No, affatto. Ciò non toglie che, come hai ammesso, è il primo libro della... Sì, è il primo libro che io leggo di Paola Capriolo. Certo. E ne sei rimasta soddisfatta e divertita. Io, sai come la conoscevo Paola Capriolo? Come la figlia del primo traduttore di Salman Rushdie. È vero. Ettore Capriolo, quello che fu gambizzato, sì, a causa dei versi satanici. E tornando alla mia invidia musicale, sempre positiva, nel senso che vorrei anch'io avere un disco così bello, e invece è nella collezione di Stefano. Teddy Charles and the All-Star Swinging Themes from the Great Russian Composers. I grandi compositori russi interpretati da, sentite chi, cito qualche nome: Eric Dolphy, Pepper Adams, Jim Hall, Jimmy Giuffre, Zoot Sims. Ecco, questo quintetto base qui già basterebbe per far finta che, ops, è finito nella mia borsa, beh, poi te lo ridò, no, veramente, guarda, siamo partiti con il piede giusto e oltre, e poi già il titolo Russia Goes Jazz. United Artists è un disco degli anni, non dico 70, probabilmente è direi stato prima. Molto prima, direi che è stato rinvenuto negli anni 70, sì, da Stefano, poi è stato pubblicato, sto cercando la data di pubblicazione, ma è scritto troppo in piccolo. Cambio gli occhiali, poi ve lo dico. qualche disco, questo sono... me lo metterei alla sera, guarda. Sono tutti pezzi di grandi musicisti russi rifatti in certo, jazz, in swinging mood. Quello che ho scelto io, poi tra l'altro l'ho scelto perché ho fatto anche una ricerca, era uno dei musicisti che erano attivi nel periodo in cui parla il libro, cioè quello era la Sherazad di Rimsky-Korsakov. E infatti è Sherazad blues, sì, in blues, questo caso sì. Lo lasciamo su tutto, così me lo ascolto anche intanto che faccio due chiacchiere per anticipare il quiz, che non sarà purtroppo con premio dal libro appena presentato, però sapete che le sorprese di Silvia sono molto molto sì, molto interessanti. Devo dire che il libro a sorpresa di questa settimana, vale la pena, ecco. È come il mercante in fiera, quando si fa l'orbina, no? In bolognese si dice tu non sai cosa c'è nella partita che viene proposta ai giocatori, però qui potete fare un'offerta interessante, perché a quanto pare il lotto in premio è appetitoso. Direi che lo possiamo lanciare allora il quiz. Sì, certo. Dunque, abbiamo detto che nel libro c'è la figura, ha una certa importanza anche la figura di Alfred Nobel. Alfred Nobel, bombe, mi è venuto in mente il film che adesso sta andando per la maggiore, che sta facendo incetta di tutti i premi nei vari concorsi, diciamo così, pre-Oscar in America, cioè Oppenheimer, che si è già vinto, sì, appunto, il Golden Globe, tutto. Ha già vinto anche quegli altri, non mi ricordo più come si chiamano, cioè si è già vinto tutto. Il protagonista di Oppenheimer, Cillian Murphy, quello che interpreta appunto Oppenheimer, è diventato famoso da noi per una serie televisiva. Io voglio il titolo della serie televisiva che ha reso popolare Cillian Murphy in tutto il mondo. La serie televisiva che ha reso popolare Cillian Murphy in tutto il mondo, al 333-180-9494 per la pubblicazione molto appetitosa ma misteriosa, fa anche rima, proposta da Silvio Albertazzi. Insomma, questo disco lo tengo in preascolto, dobbiamo proprio togliere, perché però un autore importante per quanto riguarda la musica italiana ci accompagnerà alla pubblicità. Si tratta di Ivano Fossati e anche questo brano è attinente, è ispirato. Aspetta che guardo per perché bene il titolo. Questi posti vicino al davanti mare, al mare. Davanti, al mare. Davanti al mare, Ivano Fossati. Tieni conto che Fossati e Liguri, quindi questi posti davanti al mare sono proprio quelli di cui parla il libro. Suoi, a tra poco, aspetto le risposte, davanti al mare, con questi cieli sopra del mare, fin da Pavia si pensa al mare, fin da Alessandria si sente il mare, dietro una curva improvvisamente il mare. E noi che siamo gente di Riviera, dove passano i cuori d'avventura, e noi non ci sappiamo perdonare di non sapere ballare, sapendo troppo aspettare. E noi non ci sappiamo vestire, e noi non ci sappiamo spogliare, e noi non ci sappiamo. The dance, I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance, Leonard Cohen. Questo è stato selezionato per i ritrovi, i balli, le serate di gala, immagino. Sì. E quindi ringraziare per aver accolto l'invito a ballare. E la colonna sonora selezionata da Silvia, non ho dubbi in questo caso, ho visto il Leonard Cohen che nel cuore le sta. Per cui si procede con la proclamazione del vincitore al primo quiz, che è Dino dalla Bolognina, ma la risposta esatta e soprattutto la richiesta di Silvia che non ha detto, io lo voglio scritto in maniera esatta. E infatti Peaky Blinders è scritto perfettamente da Dino, è scritto perfettamente da Paola, è scritto perfettamente anche da Jarno, per cui preparati sono preparati, ma il più veloce è stato Dino dalla Bolognina. Grazie Dino, ma grazie anche a questo podio di ascoltatrici e ascoltatori appassionati di lettura al mercoledì del Voltiamo Pagina. Invito a restare all'ascolto per la seconda presentazione, dove magari potete poi avere in premio Julian Barnes. E adesso viene il difficile, cara Silvia, soprattutto per me. L'ultimo lavoro di Julian Barnes, provo a essere sintetico, io sono un fan di Julian Barnes come la stessa Silvia del resto, eh? Allora, gli appassionati ricorderanno che venne in Italia, a Bologna, un tale Artis Gilmore. Artis Gilmore arrivò a 40 anni a Bologna. Artis Gilmore, ve lo dico subito, è stato il più grande centro, non solo per San Antonio, anche per i Kentucky Colonels, anche per i Chicago Bulls. Un capolavoro di atleta, un giocatore meraviglioso, molto signorile, tra l'altro, con una classe immensa. Vince anche diversi riconoscimenti e sarà ritenuto nella parte degli anni 70 secondo solo al grande Kareem Abdul-Jabbar. Ecco, arriva a Bologna che ha 40 anni. Per spostarlo, ricordo che Artis Gilmore ha la statura di 2,18, per spostarlo bisogna prendere un carrello della CESAB, perché praticamente lui camminava, purtroppo l'età era quella, 40 anni non si può pretendere, ma vi posso assicurare che quelle volte in cui c'era la possibilità di servirlo, e ogni volta che toccava la palla, veramente quelle poche volte, mandava in solluchero appassionate e appassionati. Certo, un atleta che è arrivato a una carriera così luminosa e immensa, ti puoi aspettare di tutto, ma l'età e i percorsi già ampiamente portati con grande soddisfazione, va da sé che la carriera in Italia è certamente importante, ma non è Artis Gilmore al quale siamo abituati. Però ciò non toglie che io sono stato molto contento di aver visto Artis Gilmore a Bologna, e io sono molto contento di aver letto il libro di Julian Barnes, Elizabeth Finch, anche se non è uno dei suoi lavori migliori, tutt'altro. Questo libro, se fosse stato portato da una scrittrice ucraina di 22 anni, Yuliana Yovanokha, mi viene in mente un nome così che sto dicendo a caso, opera prima, magari per Ponte alle Grazie, sarebbe indubbiamente un caso editoriale, per cui io non sottovaluterei questo lavoro. E scusa Silvia, so che volevi dire due parole a proposito no, di questo dicevo, libro. No, dicevo, sarebbe senza dubbio un caso editoriale, anche perché sarebbe una cosa più unica che rara che una giovane di 22 anni sapesse tutti questi dettagli e dettaglietti sulla vita di Giuliano l'Apostata, perché quello che veramente rompe nel libro di Barnes è che ci sono almeno un quarto buono, ma forse anche di più, sì, che è dedicato alla storia di Giuliano l'Apostata. Il problema grandissimo quanto vuoi, però sì, non è che lui ce la racconti da romanziere, ce la racconta proprio da storico e filosofo biografo, come sì, se l'avesse fatto suo fratello. Sai che suo fratello, sì, ma infatti lui lo ringrazia, volevo dire, certo, anche questo, lui lo ringrazia nel libro dicendo: chissà quanti errori avrei fatto se di testa mia avessi portato nella parte intermedia del lavoro, perché la narrazione praticamente è due parti, in mezzo vi è un saggio di filosofia e sì, percorsi di cambiamento che Giuliano l'Apostata ha avuto, cambiamento che, ribadisco per le volta, è stato cristianesimo già affermato, lui ricostruisce i templi pagani e riporta una religione ellenistica che ormai era stata dimenticata con tutta la sua filosofia. Quindi dal monoteismo al politeismo in una determinata maniera, e riferimenti psicologici e riferimenti filosofici che in effetti è vero sono esasperati, sono veramente esasperanti. Sì, perché dà bella prova di sé, vuole far vedere che che lui sa. Sì. Cioè, ma chiedete a me piuttosto. No, intendo dire, lui probabilmente è il più grande scrittore inglese vivente, però quando lui ha fatto Il pappagallo di Flaubert, anche lì voleva far vedere che sapeva tanto su Flaubert, però era stato talmente abile da creare una narrazione intorno al suo scibile, intorno a quello che lui sapeva su Flaubert, ed è uno dei libri più belli che siano usciti nel secondo Novecento inglese, Il pappagallo, sì, di Flaubert. Capolavoro, anche secondo me. Ecco, se facevo un pappagallo di Giuliano, era molto meglio. può essere. Perché qui abbiamo un romanzo che è diviso tra, come giustamente hai detto tu, due parti in cui c'è questa protagonista, ecco, che il libro ha il nome della protagonista, però noi non ci affezioniamo a questa protagonista. Per me non è un personaggio a tutto tondo, Elizabeth Finch. No, assolutamente, anzi lascia dietro, a parte che muore a pagina 48. Appunto. Ecco, questo già all'inizio. A pagina 48 ci ho guardato, muore. Il personaggio e voce narrante è Neil. Sì. Questo fallito, perdonami. Sì, no, no, sì, questo in inglese direbbero un loser. Ah, un loser, bravissima, che rende ancora di più l'idea. Questo loser che si iscrive a un corso di cultura e civiltà, un corso indirizzato agli adulti, aperto a tutte e a tutti, che tiene Elizabeth tipo la Primo Finch. Levi. Una Primo Levi, esattamente. Brava Silvia. E grazie. Da questo arrivano assolutamente motivi di conferma per la fascinazione che hanno su Elizabeth Finch, questa donna apparentemente diversamente normale. normale. Ecco, lei viene presentata come una figura diversamente normale. Parla anche lei per aforismi, per citazioni, fa delle lezioni che lasciano così incantati questi adulti che vogliono saperne di più su storia e filosofia, finché lo stesso Neil ne rimane coinvolto, non sentimentalmente, chi lo sa, però si trovano anche al di fuori di questa situazione e pare essere corrisposto in questa tenera amicizia culturale. Ma c'è di più: all'interno della, chiamiamola, classe, si trova anche motivo di flirt con alcune allieve. Lui è un po' impacciato, non se ne rende conto con una, apre la relazione con un'altra, e questo tutto contenuto sempre nei discorsi di Julian Barnes. Interruzione, saggio dedicato a Giuliano l'Apostata, dove tutte le parole che iniziano con mono hanno una visione negativa, monogamia, monoteismo, e potrei andare avanti ad oltranza con questo suffisso che è mono. Intanto che questo saggio va a prendere gran parte del libro, si rientra con una misteriosa eredità, un carteggio che lascia, come vi ho detto a pagina 48, Elizabeth Finch scompare, lascia un'eredità a Neil, a questo suo amico loser, che apre e trova un inizio di percorso letterario dedicato a Giuliano l'Apostata. E da qui l'ultima parte del libro. Chiaramente non vado a svelare quello che ha comunicato a me, perché è un finale che lascia motivo di riflessione, come di solito Julian Barnes poi insomma propone. Ed è qui il bello, anche se vogliamo, come ogni pagina sia scritta in modalità Barnes. È la famosa palla toccata da Artis Gilmore che il pubblico fa oh, oh. Ecco, queste sono contenute anche in Elizabeth Finch. Allora, consiglio: quando arriva l'eredità e vedete che l'eredità è un libro non finito. Su Giuliano l'Apostata, saltate e andate saltatela e andate a dopo verso la fine. Confesso però che io non ho avuto questa illuminazione sul finale. Il libro l'ho letto 2 anni fa, quando è uscito. Ah, è vero che questo è arrivato dopo in Italia, sì, giusto. L'ho letto in inglese quando è uscito 2 anni fa. E devo dire che già il fatto che ci abbiano messo 2 anni per tradurlo vuol dire che anche da Einaudi non erano proprio convintissimi. Ma certo, ma sono il primo io a dirlo. Io non me lo ricordo il finale, quindi a me questo finale non ha lasciato niente, perché non me lo ricordo. Tu adesso dicevi... O c'è da dire che ne leggiamo tanti. Sì, Cynthia, questo è vero, però quando ti colpiscono, certo, te li ricordi e come. Sì. Comunque, questo è un libro proprio che mi ha lasciato solo l'immagine di questa Elizabeth Finch che va in giro vestita più o meno da omaccio, con degli scarponcioni addosso, queste gonnellone enorme, che è molto rigida, severa. Mi aspettavo che dicessi che mi somiglia, perché di solito quando ci sono dei personaggi così Intanto Lino ci ringrazia per la colonna sonora dal vinile che stiamo ascoltando come base, Russian Going Jazz, e poi anche molto contento Dino, che è commovente, dice, vedere la città nelle strade rincuora noi ciclisti, tanta civiltà nelle strade rincuora noi ciclisti, e lui si trova particolarmente bene. Come vedete, io do spazio assolutamente a tutte le opinioni, ci manca. Mancherebbe altro, anzi sono contento per te, Dino. Ma senti sto capolavoro, questo è mamma mia. Questo era il pezzo di musica preferito da mio padre, Stranger in Paradise. Stranger in Paradise. Ci sono delle cose che noi possiamo cambiare, ci sono delle cose che non possiamo cambiare. Abbiamo il potere di farlo, punto di domanda. Aggiungerei anche un altro aspetto che è fondamentale nelle riflessioni di questo lavoro, che, come ho detto, alla fine ti portano in conclusione a fare. Noi crediamo nell'aspetto più importante, che è l'amore, di poter essere, di averlo in nostro potere, di cambiare. La risposta indubbiamente è sì, ma in realtà è no. Ecco, quello che mi ha mandato questo libro e questo messaggio. Vogliamo condividerlo assieme? Volete Elizabeth Finch di Julian Barnes? Ok, allora, velocemente. Gore Vidal, autore di Giuliano per Fazio, uno dei libri più belli in assoluto che abbia mai letto, porta l'autore Gore Vidal a essere a Roma anni fa all'interno del colossal Ben Hur. Lui viene allontanato in quanto l'attore principale, l'interprete di Ben Hur, è un omofobo di destra allucinante. Dice: c'è un gay nello staff, cacciatelo fuori, se no non avrete me all'interno di questo capolavoro cinematografico. Di chi si tratta? Chi era l'attore che interpretava Ben Hur all'interno di questo colossal, dove nello staff c'era anche Gore Vidal, che fu allontanato? Si dice che abbiano dovuto risarcire e onorare il contratto per questo allontanamento che lui ha totalmente investito a Roma culturalmente per studiare e lavorare a proposito del capolavoro Giuliano. Al quiz precedente si aggiunge la risposta di Jessica, che ringraziamo ovviamente. Ci sarà un'altra possibilità. Tu ascolta il Voltiamo Pagina. Mentre invece per il quiz che ho appena lanciato in conclusione poco prima dei saluti, il grande ritorno di Andrea arriva secondo Luigi e il protagonista è Charlton Heston. Abbastanza facile, è scritto anche bene, per cui non posso Charlton Heston l'ha proprio scritto in maniera perfetta. Grazie Luigi, al secondo posto vince Andrea. Per questo Voltiamo Pagina, i lavori potranno essere ritirati in libreria Ubik in via Ernerio 27 già da oggi pomeriggio. Poi penso di passare a salutare per questa collaborazione importante che abbiamo con la Ubik. In conclusione, abbiamo Battiato e il titolo però lo dici tu. Sì, J'entends siffler les trains di cantato da Francesco, da Franco Battiato. Ah, io no, non ce l'avrei mai fatta. J'ai pensé qu'il valait mieux. Domani andiamo a Venezia, Palazzo Grimani, per conoscere Paul Seymour, un fotografo, il curatore che ho già contattato oggi sarà disponibile per una conversazione che andrà in diretta domani in mostra. L'appuntamento col Voltiamo Pagina è mercoledì prossimo. Per la prima colazione puntuale, mi raccomando, domani alle ore 7. Grazie per la playlist e per la conversazione letteraria, secondo me molto bella, cara Silvia. Grazie a te. Buona giornata e una buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Silvia e Will. Ciao. Ciao, ciao. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai, dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir. Que c'est loin où tout en va. C'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Pensais qu'il valait mieux nous quitter sans train toute ma vie.